State ascoltando Easy Rider. Direi una trilogia dedicata alle streghe, iniziata con Angel Witch e questo brano che vi ho poc'anzi fatto sentire con questa voce femminile era di un gruppo di Torino, un gruppo che abbiamo ritrovato, ve l'avevo fatto ascoltare qualche volta durante appunto le trasmissioni diurne, si chiamavano Circus 2000, Silvana Aliotta alla voce e alle percussioni. La ricordiamo appunto come un personaggio del panorama nostrano, ma la cosa interessante è che questo disco, l'omonimo album, il primo album d'esordio dei Circus 2000, è datato 1970 ed è un caso abbastanza raro per l'epoca che un gruppo completamente italiano, insomma, cantasse in lingua inglese, quindi Circus 2000 in qualche modo precursori. I Am The Witch, infatti, era il titolo della canzone che vi ho presentato. Probabilmente li ritroveremo ancora perché il loro secondo album, An Escape From A Box, è sicuramente degno di nota, anche più del primo, che comunque è importante proprio in virtù del momento storico in cui è uscito, quindi nel 1970, insomma, in Italia certe sonorità psichedeliche con palesi, anzi espliciti riferimenti al suono dei Jefferson Airplane non erano così in voga, ma ripeto, la curiosità era che cantare in inglese quasi non era previsto all'epoca. Insomma, erano pochissimi i gruppi e gli interpreti che si esibivano in questa lingua, va bene. Allora, i messaggi sono veramente in un numero imbarazzante. Riprendo al volo in mano le vostre, prima delle mail, i vostri sms che arrivano sempre al 335-100-7777. Un saluto a Massi da Firenze, felicissimo di aver ascoltato i Gong. Poi si prosegue con Marco che fa una richiesta, dice: sei grande, ma tengo una minchia tanta di Frank Zappa, la metteresti? Guarda, ho avuto il coraggio di metterla anni fa in fascia serale, ma soprattutto l'anno scorso in fascia diurna, quindi non avrò nessun problema a rimettere questo pezzo. È chiaro che Zappa lo si può ricordare per tante cose, noi qua in Italia lo ricordiamo anche per questa goliardata qua senza precedenti. Marco Sarca, un altro in ascolto, fedelissimo, mi chiede: non ti spiace se mi siedo a tavola? Beh, ovviamente no, anzi, godetevi i vostri momenti, l'importante è che siate con noi. Poi il patentato 13 dice: che bello sentire a quest'ora, Russi, siete stati fantastici, un abbraccio circolare a tutti. Allora, Stab da Ravenna dice: grazie per aver avvalorato la, anche la mia firma, insomma, la serata della, vabbè, sì, poi la questione autografi a me fa molto sorridere, però è indubbio che ci faccia piacere raccogliere tutto il vostro riscontro, il vostro entusiasmo. Un saluto all'amico Bicycle67 che ovviamente dice: ci vediamo venerdì. Allora, ripeto, appuntamento venerdì con la Rock FM Stars Band, ma io approfitterei proprio di questi minuti prima di leggere le vostre mail per ricordarvi invece un appuntamento, anzi un paio di appuntamenti mediatici che riguardano Rock FM. In realtà domani dalle 14 alle 14.30, se avete voglia di sintonizzarvi sul circuito popolare network, verranno ospitati i nostri amici Max De Rieu, Maurizio Faulisi e probabilmente anche Ariel, e il top sarebbe se ci fosse anche il maestro Fricantoni. In ogni caso, non dimenticatevi di questo appuntamento domani pomeriggio alle 14, Radio Popolare o Popolare Network, mentre sul circuito di Sky televisivo Rock TV il pomeriggio di giovedì, che sarà l'8 di maggio, ci saremo, non dico tutti, però insomma una parte di noi dello staff di Rock FM sarà lì a chiacchierarsela, insomma, un po' con voi. Matt da Forlì, insomma, dice che Easy Rider in fascia serale ovviamente vive il suo habitat naturale. Lorenzo da Firenze, un saluto anche a lui. È possibile ricevere la patente via mail previo esame? Causa lavoro non sono nella possibilità di seguirvi nel tour. Questo è un peccato perché la patente viene firmata al momento del rilascio, proprio in tempo reale, quindi dovresti fare carte false quantomeno per venire il 24 in quella, insomma, della provincia di Pisa per l'ultima data del farewell tour della Rock FM Star Band. Ivan da Genova, un saluto anche a lui, un saluto all'amico Stefano Urbani, un grandissimo amico di vecchia data, che dice: è meglio ascoltarti sdraiato sul letto che al lavoro. Bene, giusta suggestione, caro Stefano, spero di vederti presto. Un saluto a tutta la family by Rock in Progress, tutti hanno più attenzione con questa fascia, insomma, con questa fascia oraria. Lucia da Ravenna: che piacere risentirti, complimenti per come suoni, grazie. Non eravate solamente un gruppo che suonava, c'era tanto affetto. Questa è una giusta valutazione, cara Lucia, e anzi forse è più l'affetto di quello che noi suoniamo. Poi, allora, queste sono ancora tutti i vostri sms. Io sono un filo emozionato, forse perché sono tornato alla sera, ma sono veramente tantissimi anche i messaggi che sto ricevendo alla mailbox at radiorockfm.com. Parto dall'amico Stefano, che mi chiede un consiglio relativo ai 108 ascoltati settimana scorsa, l'album Songs of Separation, assolutamente imperdibile. Se ti piace il pezzo che ho passato, è un capolavoro. Quindi 108 sono veramente una band fondamentale per quel tipo di genere, anzi tra poco ascolteremo delle cose similari. Un saluto a Peter, che è molto sintonizzato ovviamente anche lui. Fefo e Kate, che rinunciano alla palestra per essere sintonizzati anche loro alla prima di Easy Rider alla sera. Poi Fausto, anche lui dice: che musica, un giorno vi dovranno, ci dovranno chiedere scusa a reti unificate, gong da brivido. Poi chi abbiamo da salutare ancora? Peter, che dice che su Imola ci sono un po' di problemi sulla frequenza, per cui è costretto allo streaming. Allora mi dà la possibilità di ricordarvi ancora per poco che dal sito radiorockfm.com è possibile ascoltare in streaming. Ma il prossimo pezzo ci fa concludere una trilogia delle streghe, anche se non parla assolutamente di streghe, ma il gruppo che sto per farvi ascoltare si chiama Black Widow, la vedova nera. Old Man, dal loro terzo album, Black Widow 3, siamo nel lontano 1971, e questo è un pezzo vagamente beatlesiano, un po' come tutto il terzo album dei Black Widow. Ascoltiamocelo. The trees, the leaves, the bushes and the sun. With his hand raised he'd stare and look at me from where he was born many years ago. Now he slowly walks toward me. My admiration for him tells me there's something mystic deep inside. He stands before me smiling, his eyes squint with his aging. I find it hard to say the words I feel. In the summer we go down to the river's hunting ground and watch the world go by such lazy days. With his fishing pole and line he'd search with eyes that shine for the silent life that glides beneath the water. I stand beside him wondering why people seem to scorn him. He needs to be respected, can't they see? With my hand on his shoulder, he's a man so much older. I say to him with tears in my eyes. Come, I have lived for some. Half the tales he tells me, Ovviamente parte un esplicito riferimento ai Beatles che vi ho menzionato prima, anzi ascoltate qua, ce l'abbiamo in sottofondo. Il richiamo a Hey Jude del 1968, se ricordo bene, però siamo nel 71 quando i Black Widow pubblicano questo terzo album intitolato per l'appunto Black Widow 3, da cui abbiamo ascoltato la traccia conclusiva, ossia Old Man, tanto per fare una sorta di collegamento, visto che a Easy Rider piacciono molto le cose un po' concept, come si usa dire, e quindi ascoltare prima gli Angel Witch, poi un gruppo italiano che si chiama Circus 2000 con I Am The Witch, e poi ascoltare un altro gruppo inglese, sempre del medesimo periodo, che si chiama Black Widow. Allora direi di proseguire con la grande musica. Tra un po' arriveranno anche le cose un pelino più moderne, perché so che molti di voi abituati con la collega Claudia nella fascia serale sicuramente non disdegnano certo la grande musica rock anche attuale. Insomma, dopo sarò in grado di potervi anche così accontentare sporadicamente, insomma, però non vorrei snaturare del tutto Easy Rider, perché è un viaggio senza tempo che sconfina veramente fino all'inizio degli anni 60 e arriva ai giorni nostri. Infatti anche il prossimo pezzo è un brano, direi, appartenente alla storia della grande musica. Massimo da Livorno, un altro amico da salutare, dice: Easy Rider a quest'ora mi riporta indietro quando dalle parti di Livorno e Pisa c'era Radio Ulisse che trasmetteva cultura come voi. Ah, grazie mille, non ero a conoscenza di questa radio, immagino locale, che probabilmente aveva il medesimo coraggio, insomma, di non dire le cose che dicono tutti, insomma. Poi mi viene richiesto se conosco gruppi come Etna e Gramigna. In realtà non mi vengono in mente. Saluti da Maggie da Viareggio, o Maggie. Ci vediamo a Gello. Il tuo programma è meraviglioso, grazie mille. Speriamo di continuare ad essere meravigliosi, esattamente come voi tutti all'ascolto. Io voglio salutare Luca da Savona, che è stato definito dal sottoscritto come redazione, diciamo, filiale ligure della redazione di Easy Rider. Bentornato alla sera, mi dice, Circus 2000 e Silvana Agliotta, ovviamente un ricordo che per lui è importante. Gong, sveglia, ecco un altro splendido caso di gli acidi fanno bene. Grazie del bellissimo passaggio. David Allen l'ho visto 9 anni fa al Tenax di Firenze, nonostante l'età resta un grande. Per certi personaggi il tempo non passa, o almeno così sembra. Questa è l'amica Chiara che manda il suo giudizio relativo all'ascolto dei Gong. Adesso vi porto un po' a ballare, vi porto sul dance floor, un artista cieco che ha fatto del soul la sua vita, la sua bandiera, Stevie Wonder, 1973. Questa è Higher Ground, nota nel mondo anche del rock, visto che è stata coverizzata qualche anno dopo dai Red Hot Chili Pepper. We'll be right back. Higher Ground è il titolo della canzone, Inner Visions il titolo dell'album, ripeto, del 1973 di Stevie Wonder, un brano che è entrato un po' nell'immaginario collettivo, oltre che nei cuori di molti, grazie appunto a questa cover a nome Red Hot Chili Pepper. Il numero è sempre 335-100-7777 e il mio abbraccio va ad Anton, dice: finalmente sono tornato all'ascolto con grandi fatiche per via di questo orario a me destinato spesso al lavoro, ma ti ascolterò fino al 31. Grazie e bentornato a te. L'amica Laura da Genova invece dice: bello cenare con Easy Rider, ma tu sai che frequenze ha Radio Popolare? Beh, io posso darvi la frequenza, visto che domani c'è questo appuntamento insieme a Max e a Maurizio e, ripeto, probabilmente insieme a Daria e anche Frick. La frequenza milanese so che è 107.6, so che non dovrei dirlo, ma non siamo assolutamente in concorrenza e lo dimostra il fatto che insomma domani ci ospiteranno proprio per parlare anche di questa cosa, insomma, dell'imminente chiusura di un emittente, che non è mai una notizia positiva. Allora, vi avevo promesso sonorità un po' più recenti ed è il caso del prossimo brano, grazie alla sapiente e stupenda redazione di Easy Rider. Io vi faccio ascoltare un brano che altrimenti non potreste mai ascoltare, sicuramente via radio. He is Legend, lui è leggenda, questo è il nome di questa recentissima formazione americana. Ha pubblicato il primo album nel 2004 ed è proprio quello che sto prendendo in considerazione con un brano che si intitola Eating a Book. Non ho voglia di spendere parole su quello che è il genere di questa band, ma preferisco far parlare la musica. He is Legend, questa è Eating a Book del 2004. Less is no water, come si suol dire, la classe non è acqua. He is legend, direttamente dal loro album d'esordio del 2004 intitolato I Am Hollywood, per l'ascolto del quale voglio ancora ringraziare la redazione, la sapiente redazione, perché dovete sapere che Easy Rider non va in onda con la mia voce, ma dietro la mia voce, insomma, ogni tanto ci sono anche degli amici che fanno da supporto, oltre che, insomma, delle persone veramente importanti e che ne sanno a pacchi, che rendono questa trasmissione sempre interessante, indipendentemente dalla fascia oraria nella quale si va in onda. Sempre numerosi i vostri messaggi, altri saluti agli amici che scrivono. Claudio da Forlì che dice: Black Widow alla grande, un grazie da un patentato mancato, erano finiti i moduli, con la speranza che questo sia il mese più lungo della storia. Eh sì, è un po' una speranza che abbiamo tutti. L'amica Camarilla dice: questo ritorno serale è un immenso piacere per tutti quelli che ti seguono. Ho sempre pensato che appunto la fascia notturna serale fosse quella più adatta per le atmosfere di Easy Rider, anche perché con l'università raramente era difficile seguire nel solito orario. Ottimo inizio. Benissimo, questo è solo l'inizio di un'avventura che durerà fino all'ultima settimana per la storia di Rock FM. Io proseguirei, invece che parlando troppo, proseguirei con la musica. Anche il prossimo pezzo è di un gruppo americano, però ci fa fare un salto indietro, sempre disco d'esordio, andiamo nel 1975, una delle band che poi negli anni 80 letteralmente esploderà, diventerà una band di massa. Grazie comunque a un talento melodico veramente unico. Journey, viaggio, è un nome assolutamente indicato anche per questo tipo di trasmissione. Album d'esordio, ripeto, del 1975, con un altro signor batterista, Ansley Dunbar. All'epoca militava nei Journey, uno dei più grandi batteristi della storia del rock. Io ve li faccio riascoltare appunto dall'album omonimo, con To Play Some Music, e siamo un po' qui per questo, quindi proprio per suonare, per giocare con la musica. Journey. Hey! Play Some Music, questo era il suono dei Journey durante il periodo dei loro esordi, un bellissimo disco che contiene delle gemme come Of a Lifetime, ma che insomma abbiamo ritrovato con un sound veramente punto d'incrocio, come mi piace definire, tra il rock, probabilmente l'adult oriented rock, anche se all'epoca questa definizione non era stata ancora coniata, e il miglior progressive. Poi ricordiamo insomma che anche Neil Sean aveva militato prima di formare i Journey nella band di Santana, quindi le origini erano sicuramente importanti ed illustri. Allora, io sono pronto con un nuovo disco sul piatto, un disco che ci fa viaggiare, ci porta sui lidi francesi, quindi rispolveriamo un classico, un altro album d'esordio, peraltro casualmente, di un gruppo che fa capo a un seguace, diciamo, dal punto di vista artistico di Lou Reed. Si parla di Larry Martin. Larry Martin Factory era il nome del suo gruppo, si colloca proprio in quella che è la prima ondata del punk francese, siamo nel 1977. Il disco si intitolava Voli del primo albeggiare, Early Down Flyers and Electric Kids, e Bambini elettrici, quindi un titolo sicuramente che ci rimanda un po' al surrealismo per queste immagini così difficili da prendere o quantomeno da accostare. E allora Sweet Mama Fix è uno dei brani più importanti per quanto riguarda l'argomento droga, visto che ispirandosi a Lou Reed parlare di eroina è fin troppo facile, e quindi Dolce Mamma Siringa, questo è Mr. Larry Martin dalla Francia. Sweet mama fix. Easy Rider in notturna dice per voi Sweet Mama Fix, o meglio era Larry Martin con la sua Factory a dire Dolce Mamma Siringa, Sweet Mama Fix, un classico del punk francese del 1977. E questo è un momento importante perché da un personaggio solista come poteva essere Larry Martin passiamo a un altro personaggio che ha fatto della sua carriera solista un momento veramente grande, grosso e importante, è il caso di dire, durante gli anni 90. Arriva dall'esperienza punk primordiale dalla fine degli anni 70, Los Angelina con i Black Flag, ovviamente avrete capito che si parla di Harry Rollins con la sua Rollins Band. E allora io mi accingo a farvi ascoltare un momento catartico dal vivo. Nel 1990 proprio esce un doppio album dal vivo, il primo live della Rollins Band, diciamo live intero perché poi era uscito Do It con dei momenti live, si intitolava Turn It On e per l'occasione in scaletta c'erano dei brani inediti, uno dei quali è questa Out There, un po' come dire là fuori. E allora è un momento in cui Harry Rollins dava veramente il massimo, la sua fisicità e anche la sua intelligenza si esprimevano in un brano mastodontico con una grossa base, ma a un certo punto c'è proprio un momento breve di spoken word in cui anche tutta la carica interpretativa di questo animale, è il caso di dire, da palcoscenico, viene fuori. E allora mi permetto in questa fascia oraria di farvi ascoltare per intero Out There della Rollins Band dal vivo, dall'album Turn It On del 1990. Harry Rollins per voi ad Easy Rider. Air. Bone starts with so much pain that sometimes all you wanna do is crawl away and die. Feeling so carved out and hollow that you don't even have a tear left to cry. So cold.